Pronto? Buongiorno, mi chiamo Marcianò e telefono da Sanremo. Sì, buongiorno, sì, ho visto la sua mail stamattina. Ecco, guarda, io l'ho chiamata perché appunto mi chiedevo come mai non mi avesse ancora risposto e Ah, allora. beh, gli ho risposto la prima volta, non possiamo rispondere a, ovviamente sempre a cose che appunto sono anche abbastanza imprecise. Quando è che mi ha risposto la prima volta? Scusi che non mi è arrivato niente. Io le ho risposto e ora se vuole glielo dico, no, Ma siccome mi arrivano comunque, decine di mail niente, allora a lei un tempo. contesta cose che probabilmente sono basate solo su delle valutazioni personali. Sono valutate sul. Lei deve tener conto che noi siamo un ente pubblico, noi abbiamo il dovere Ecco. di seguire quelle che sono le impostazioni della legge. Benissimo, allora io le Noi dico che. misuriamo il PM10, lo misuriamo con la strumentazione che è indicata dalla normativa in vigore e Perfetto. ci sono i risultati, Ok. ci sono i risultati direttamente pubblicati sul sito www.ambienteliguria.it Sì. anche per quello che riguarda la centralina di Savona, di, Ecco, scusi, di Sanremo, va bene. delle Allora, io altre risultati diverse. proprio questo le voglio dire. Qual è la sua Intanto le strumentazione? voglio dire una Niente, cosa. non è Allora, la strumentazione. no, no, no. Allora, intanto la nostra strumentazione è professionale, tant'è vero che viene venduta a tecnici del settore. Sì, E questo è il primo le dico che punto. ovviamente i controlli ambientali pubblici hanno delle rilevanze diverse, delle strumentazioni diverse. Allora, intanto questa è più sofisticata perché rileva anche i valori al di sotto dei PM10, cosa che invece Ora lei. abbiamo, ossia per legge noi Lo tutte so, quelle lei, no, ma cose lei diverse sia, che tranquillo, ovviamente. tranquillo. Allora, lei, io non contesto lei, io contesto la legge. Allora, intanto la legge non prevede, spesso e volentieri, il rilevamento delle polveri al di sotto dei PM10 e questo è estremamente grave perché lei mi insegna che le micropolveri al di sotto dei PM10 sono ancora più dannose dei PM10, vengono prodotte dai motori diesel E e sono via totalmente dicendo. d'accordo con lei. D'accordo. Allora, per quanto riguarda l'inaffidabilità dell'apparecchiatura, che lei mi contesta, le posso garantire Io che. ovviamente glielo contesto senza nemmeno averla sott'occhio, Ecco però appunto, sai una cosa, ecco, dovrebbe so intanto, che le dovrebbe apparecchiature devono essere calibrate, intanto. si possono, insomma. Allora, l'apparecchiatura è già calibrata perché nasce calibrata e altrimenti non potrebbe essere venduta per almeno ti direbbero guarda che devi calibrarla prima. È calibrata e tra l'altro le posso garantire, visto che lei o non so se lei è il signor dottor Ferretti. Sì. Ecco, lei, il dottor Ferretti ha già risposto a un nostro lettore che le aveva segnalato la Allora probabilmente presenza. la risposta era quella, Ecco, lei aveva era lei che risposto. diceva che noi, ossia, lì c'era una foto con un'indicazione di valori ARPA quando noi assolutamente quella Ma non siamo. Allora. infatti quel sito dopo la nostra segnalazione non è più accessibile, guarda caso. Quindi va bene, questo è già un elemento. Comunque No, io. noi non abbiamo certo Eh bloccato, sì, perché abbiamo ho verificato poi che non è gestito dall'ARPA. Questa è una inesattezza del lettore. Comunque, il problema è un altro. Questa apparecchiatura, allorquando ci sono giornate nelle quali non intervengono operazioni di guerra climatica, misura livelli di PM10 ed inferiori all'interno dei limiti prescritti dall'OMS, dall'Organizzazione Mondiale per la Sanità. Per cui, evidentemente, se questa apparecchiatura rileva dei livelli bassi di PM10 ed inferiori nelle giornate in cui ci sono i cumuli da bel tempo, tanto per dirne una, quindi quando non intervengono questi aerei militari a bassa quota, vuol dire che l'apparecchiatura funziona. Tant'è che invece quando notiamo queste nebbie di ricaduta alla sera, che addirittura si vedono essere spazzate dal vento quando le si vede in contrasto con la luce dei fari, dei lampioni della strada, ecco che i livelli arrivano a superare decine di volte quelli ammessi dalla legge. Ora io mi domando, come mai gli enti come l'ARPA Liguria, l'ARPA Piemonte qualche anno fa aveva ammesso e poi aveva fatto marcia indietro, ma aveva ammesso che c'erano delle operazioni militari in corso, come mai l'ARPA in generale, gli enti preposti alla salute che dovrebbero tutelare i cittadini, l'ambiente, la capacità e la possibilità di negare alcunché. Noi ci troviamo in presenza, no, perché lei nel, lei nel documento ha parlato regionale, che è la 20/2006, che stabilisce alcuni, ma lei nel documento delegati dallo Stato alle regioni, e le regioni utilizzano tutte le ARPAL per fare i monitoraggi ambientali. Noi nel momento in cui facciamo i monitoraggi ambientali dobbiamo, perché sennò un giudice ci può dire che buttiamo via i soldi pubblici, sì, seguire esclusivamente le cose che sono indicate dalla legge. Cosa diversa è se la regione decide di fare dei monitoraggi in più, ma c'è un legislatore, la regione, su questo sappiamo, ci danno dei compiti. Su questo è chiaro, su questo è chiaro. Una persona ci può dire, ma perché voi spendete 1.000 euro su questa cosa e non su quest'altra che a mio avviso è più dannosa per l'ambiente? Va bene, comunque intanto quando ci manda questo tipo di segnalazioni, noi possiamo tecnicamente, scientificamente entrare nel merito della validità del dato. Allora intanto io scusi se la interrompo, ma intanto non bisognerebbe continuare a negare, definendo le questioni solo delle questioni complottistiche e rimandando al sito di Nimbus, che è un sito logicamente dove sparano cazzate, perché non si può continuare a negare un fenomeno alla gente. Voi siete enti pubblici e siete tenuti perlomeno ad astenervi, non a negare certe evidenze, perché se noi abbiamo degli aerei non identificati, dire che lì in quel giorno c'erano 3,5, dico dei numeri a caso, 3.500 chili di patate, lei mi può dire no, quel 3.500 è sbagliato? Allora a questo punto noi veniamo, si può instaurare un discorso sulla strumentazione, sulla validità di quel dato, ma dire che quei 3.500 chili di patate sono frutto di una guerra chimica piuttosto certamente, perché le ripeto che i valori dei PM sono bassi se non ci sono attività di guerra climatica in corso. Ma è un'azione sua che può essere ovviamente contestata da persone. È chiaro, io farò come mia abitudine farò l'ennesimo esposto, però io continuo a contestare il fatto che enti pubblici di questa rilevanza continuino, quando la gente scrive, a negare un'evidenza, perché non si può continuare a dire sono tesi complottiste da psicopatici quando sono affermazioni veramente gravi, pesanti e comunque penalmente responsabili. Ma no, che non riguardano la nostra agenzia, la cosa che sto cercando di, ossia. E allora anziché dire sono tesi complottiste e rimando al sito di Nimbus, lei faccia così, anziché dire sono siti. Se vuole un dialogo mi deve anche permettere di parlare, perché se io no, ho capito, non ha senso, però è una telefonata. Allora, torno a ripetere che è sbagliato individuare in ARPAL l'ente che possa darle torto o ragione. Benissimo, allora, noi abbiamo questo soltanto il compito di misurare in questo caso la qualità dell'aria. Ecco, allora ha fatto delle verifiche perché alla luce delle misurazioni che stiamo facendo noi, i dati comunque non corrispondono a quanto dovrebbero essere faccio un'esposta alla magistratura. Certamente, non è il primo e non è l'ultimo esposto che farò alla magistratura. C'è qualcosa che non funziona qui. Non si può continuare a dire ma la apparecchiatura non è valida e le misurazioni. Noi facciamo le analisi dell'acqua piovana, le analisi del terreno, le analisi delle piante, sono piene di metalli pesanti che non ci dovrebbero essere, e ci continuano a dire che le analisi non sono buone e queste che. A questo punto non so più cosa dirle. Comunque quello che dico io è che quando la gente chiede informazioni, voi non dovete negare la faccenda, piuttosto astenetevi. Allora, quando lei mi dice che non è vostra competenza, perfetto, non è vostra competenza, allora astenetevi dal dare dei giudizi, perché voi non conoscete la questione, oppure se la conoscete avete intenzione comunque di nasconderla, comunque sia astenetevi da giudizi tipo tesi complottiste, bla bla bla bla, le scie chimiche non esistono, perché qui si tratta di geoingegneria. non dichiarata, e se va a documentarsi sulla geoingegneria ci sono i progetti e i brevetti sulla dispersione di metalli pesanti. Queste teorie sono ovviamente... Non sono teorie, sono addirittura, siamo riusciti ad avere anche... Non siamo il Ministero dell'Interno per vedere se c'è una guerra in corso. Perfetto, no. Infatti... Non siamo nemmeno... noi abbiamo degli obblighi che ci derivano dalla normativa. Se lei ritiene che questi obblighi siano stati disattesi, è suo dovere andarci a denunciare. Glielo dico sinceramente con tutta tranquillità. Comunque, altrimenti, voi fate delle verifiche. Se diretta a me, deve vederci come un ente che non può andare a fare quel che vuole. Perfetto, allora andate a verificare, anziché, allora scusi, anziché, anziché dire a priori che le analisi e i rilevamenti non sono esatti e non sono corretti, perché l'apparecchiatura che abbiamo noi non è un'apparecchiatura da 10 euro, ma da 1500 euro. Ed è professionale, che vanno controllate, che vanno messe eccetera, che è assolutamente perfetto, l'abbiamo testata, abbiamo verificato tutto quello che c'era da verificare. Ovviamente è una supposizione, allora fate delle verifiche anche voi, perché anch'io posso dire che sono delle supposizioni, perché qui l'inquinamento viene rilevato ora e non solo viene rilevato, ma guardi che io sono anni che volevo acquistare questa apparecchiatura, perché continuava a scendere una nebbia che puzzava di zolfo e dicevo da dove viene, no? Quindi i rilevamenti confermano quello che il naso, perché ancora abbiamo una sensibilità, abbiamo ancora la sensibilità che dovrebbero avere gli animali, ma che gli uomini oggi non hanno più, allora il naso percepisce che c'è qualcosa che non va. Le vie aeree, se lei va nei pronti soccorso, c'è gente che non riesce a respirare in quelle giornate lì, quindi c'è qualcosa che non va. L'ARPA, in quanto ente sull'ambiente, deve verificare. E lei, io le posso dire dove sono i nostri dati, che sono dati in continuo. Io ho controllato i dati che sono inseriti alla centralina di Sanremo e che sono visibili da tutti. Allora lei me li mandi per email, io farò un confronto, mi metto con il mio rilevatore nella zona dove c'è la centralina e facciamo un confronto tra i parametri che sono misurati dalla centralina. Non sono sordo, mi faccio parlare, vedo il sito dove andare a vedere i nostri dati, vi do gli strumenti per denunciarci, più di così non so come essere trasparente. Assolutamente. Il sito è www.ambiente in Liguria, scritto tutto attaccato, okay. .it. Va bene. Devi andare su Aria, poi sulla destra c'è una cosa con scritto banca dati, va lì e vedrà che trovi i dati di Sanremo. Va bene. Li confronta con i suoi, ovviamente, se lei ritiene che siano dati manomessi, è anche sul dovere denunciarci, me lo dico chiaramente. Certamente. È quello che va bene. Tutte le verifiche che dovremo fare le faremo. Comunque quello che le chiedo la cortesia di non negare un'evidenza o perlomeno di astenersi, perché non siamo né psicopatici né complottisti. Ho detto che non è nostro compito dire di sì né di no, nel senso noi dobbiamo misurare un dato. No, perché io mi hanno mandato quello che ha scritto a questa persona, non sono opinioni, le sue saranno opinioni, ma devono essere dimostrate. Può citare degli altri articoli scientifici. Certo, perché gli articoli di Nimbus non sono articoli scientifici, ma articoli di disinformazione. L'articolo in se stesso non glielo so commentare, non sono un fisico e non glielo so commentare. Ecco. Né dare Le faccio una domanda da cittadino. Le faccio una domanda da cittadino, ma lei questi aerei li vede passare a bassa quota o non li vede? Le assicuro che con tutti i problemi che ci sono di inquinamento. È il primo livello di inquinamento, perché quando abbiamo aerei che volano a bassa quota, a prescindere dal fatto che potrebbero spruzzare o meno, comunque quando volano a bassa quota lei mi insegna che la combustione ad elevate temperature provoca la produzione di nanoparticelle al di sotto dei 2.5, quindi anche questo è un vostro problema. Non è uno dei tanti problemi. Ci dirà di monitorare le cose 2005, ci darà ovviamente contemporaneamente, ci darà metodi e tutto, saremo una cosa che saremo obbligati a fare, che faremo. È benissimo. Piacere. E allora aspettiamo questo, perché tanto siamo in mano a dei politici che sono una banda di ignoranti. Noi dobbiamo fare i conti con quello, non siamo il... Noi ovviamente dobbiamo render conto, come giusto che sia, dei soldi che la collettività ci dà per fare la nostra attività. La nostra attività è indicata dalle leggi, da quelle non ci possiamo muovere. Perfetto, va bene così. Ok, io la ringrazio. La saluto. Arrivederci, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno.